Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, ben trovati. Cominciamo questa puntata con una notizia che potrebbe essere un po' frivola, anche se in realtà così non è. La prima rete di ristoranti ad avanzi zero. È un'iniziativa di Cena dell'Amicizia, una onlus che da 40 anni si occupa di persone senza dimora a Milano, che ha chiesto ai ristoranti che aderiscono al progetto di proporre ai propri clienti di portar via la doggy bag, come si chiama negli Stati Uniti, cioè la borsetta con gli avanzi di cibo o anche di vino che vengono così portati via dagli avventori. Il buono che avanza è una iniziativa, in realtà lo potete capire bene, che è di sensibilizzazione con una missione, quella di combattere lo spreco anche nelle piccole cose. È una cultura che deve cambiare, può cambiare, e sicuramente questa iniziativa va in quella direzione. Parliamo di packaging sostenibile, cioè delle confezioni dei prodotti che tutti i giorni compriamo e sui quali si punta il dito a proposito di spreco, perché spesso sono eccessive e non vengono riutilizzate, va da sé, e quindi sono uno spreco importante. C'è un'iniziativa che si chiama Go Green for Packaging, che martedì si fa a Roma, è un convegno, una giornata di lavori. Ne parliamo con Marco Andrea Mussini, che è l'amministratore di Domino Communication, che l'ha organizzata. Marco, è una giornata che ha un obiettivo divulgativo, di studio, di analisi, raccontaci. Buongiorno a tutti, sì, l'iniziativa nasce per essere un punto d'incontro fra chi produce macchinari e materiali per produrre gli imballaggi, chi li produce realmente e chi li commissiona, cioè le grandi marche. Il tema è nato con l'idea di creare, da un lato, cultura e sensibilità verso questo aspetto riguardante la sostenibilità, quindi l'ambiente, la natura e l'uomo, senza dimenticare che tutto questo è raggiungibile attraverso delle tecnologie e dei processi che sono già oggi disponibili e che consentono appunto di realizzare, come in questo caso, gli imballaggi in un modo che sia più favorevole e più amico dell'ambiente. E spesso leggiamo di ricerche o sentiamo di statistiche dove ci sono percentuali incredibili di spreco, cioè molto spesso il packaging è, come dire, sovradimensionato, assurdo in termini di costo e di quantitativo rispetto al prodotto vero e proprio. Ma in effetti ci sono proprio dei dati spaventosi, soprattutto per quello che riguarda i grandi punti vendita, le grandi distribuzioni, ma anche i consumatori, quindi il privato cittadino, in merito a merci acquistate oppure neanche acquistate presso i punti vendita e che purtroppo finiscono nelle discariche. Il packaging ha un'importanza perché è parte del prodotto stesso, è imprescindibile dal prodotto stesso. Abbiamo anche letto, e sappiamo per la verità, per esempio nel campo dei detersivi, spesso la confezione è abnorme perché si diluisce il prodotto con l'acqua, ma eliminando l'acqua, quindi proponendo sostanzialmente solo la sostanza vera e propria da diluire successivamente, si diminuisce il volume del packaging in maniera veramente significativa. Sicuramente, e fra l'altro i detersivi sono quel tipo di prodotti che da tempo nei punti vendita hanno cominciato a comparire anche come vendita sfusa, quindi c'è un riutilizzo del packaging stesso per ricomperare il prodotto più volte. Ecco. C'è sensibilità nella grande distribuzione? Forse sì, loro hanno bisogno di spazi, più piccola la confezione più prodotti possono inserire nello scaffale, così? Sì, non solo nella grande distribuzione, ma pare che le prime aziende sensibili proprio a un discorso di sostenibilità nell'ambito della produzione del packaging siano addirittura le grandi marche che richiedono ai propri, diciamo così, alle aziende, ai propri fornitori di packaging di studiare o di analizzare soluzioni che consentano la produzione di imballaggi in modo più sostenibile. Bene, grazie a Marco Andrea Mussini, grazie, organizzatore di packaging sostenibile Go Green for Packaging a Roma. Alla prossima. Chiudiamo la puntata con una notizia riguardo a Milano, questa volta un'iniziativa alla Bocconi organizzata dal CERTET. Giovedì mattina si parla di mobilità di territorio e delle risorse, la mobilità locale con uno sguardo in avanti, ecologica, efficiente, innovativa e sostenibile. Fa parte del programma Spazio Alpino 13 dell'Unione Europea, che valorizza progetti pilota che hanno come dire, come obiettivo quello di minimizzare gli impatti ambientali e privilegiare l'utilizzo di risorse rinnovabili. Questo è tutto per la puntata domenicale di Ferry Boat, che va in onda alle 6.50 e alle 14. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. Alla prossima.